C'è un gruppo di giovani neonazisti dietro al brutale pestaggio che ha fatto finire in coma Nicola Tommasoli, il 29enne reo soltanto di aver rifiutato al branco una sigaretta la notte del 1° maggio in centro a Verona. Uno dei 5 aggressori, un 19enne della Verona Bene, ha deciso di costituirsi e di rendere piena confessione su quanto accaduto. Dei suoi complici, 2 sono stati individuati dalla polizia ma sono già fuggiti all'estero, altri 2 invece restano ancora da identificare. Il reo confesso frequenta ambienti dell'estrema destra, allo stadio fa l'ultra ed era già stato schedato dalla polizia per aver preso parte ad altre aggressioni e a violenze negli stadi. Il suo gruppo, come tanti altri di ispirazione neonazista, già noti alla Digos cittadina, fa della violenza e della caccia al diverso, per razza, per fede politica o anche solo per l'abbigliamento, il principale passatempo. Ma il presidente del Veneto Fronte Skinheads, Giordano Caracino, esclude comunque che il ragazzo fermato faccia parte del suo movimento. Con la persona assolutamente non abbiamo nulla a che fare e chiaramente prendiamo le distanze. Mai i nostri aderenti sono stati coinvolti in aggressioni di una stupidità e brutalità del genere. Intanto le condizioni di Nicola Tommasoli restano disperate e da oggi i medici hanno avviato l'osservazione per l'eventuale dichiarazione di morte cerebrale. Silva Menetto, GR24, Il Sole 24 Ore, Verona.